Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Quanti attacchi di hacker in media ci possono essere ogni giorno? In generale, a livello internazionale, stiamo parlando di decine di migliaia. Tuttavia bisogna anche distinguere quelli che sono operazioni fatte da ragazzini che prelevano programmi per fare, diciamo, il hacking, no? Ma in modo molto blando, e quello invece fatto da prezzolati, quindi i cosiddetti hacker del lato oscuro, che i puristi del settore chiamano i cracker, e poi quelli invece che lavorano per governi o per organizzazioni terroristiche. Se ne vedono molti recentemente di attacchi effettuati specialmente dal blocco orientale, quindi stiamo parlando di Cina, Russia, Iran. Infatti c'è una Iranian Cyber Army, no? Che è una nuova organizzazione di hacker che non si sa se è sponsorizzata dal governo o no, si suppone di sì, ma nessuno lo sa, che sta facendo parecchi danni. E la Cina, con quell'operazione che ha fatto contro Google, che poi ha aperto le porte dagli investigatori a tutta una serie di altre aziende che sono state, si dice così, bucate negli Stati Uniti e dalle quali sono state prelevate informazioni strategiche negli ultimi 4 anni. Questo ha scioccato molto l'intelligence occidentale. Se una 50ina degli hacker migliori del mondo avesse deciso di sferrare un attacco congiunto contro uno Stato, lo Stato probabilmente sarebbe sopravvissuto, ma non senza problemi. I costi si sarebbero calcolati in miliardi se Lisbeth avesse fatto pollice giù. Quello che Stieg Larsson scriveva nella Regina dei Castelli, in molti l'hanno sperimentato direttamente nella più cruenta battaglia informatica degli ultimi tempi. 75.000 computer di circa 2.500 aziende in 196 diversi paesi sono stati attaccati da una squadra di hacker per 18 mesi. Stati Uniti, Messico, Arabia, Egitto e Turchia i più bersagliati da questa squadra di pirati provenienti dall'est. E non a caso il direttore della National Intelligence aveva detto che dopo Al-Qaeda il più grande pericolo per l'America è la cyber war. Il nuovo spionaggio dunque passa attraverso la rete, come racconta Fabio Ghioni, Divine Shadow per i naviganti, uno che di intrusioni e di buchi ne sa come pochi altri. Già capo del Tiger Team Telecom e già coinvolto nell'inchiesta sui dossier illegali proprio per intrusioni informatiche, come vi abbiamo già raccontato in vecchie puntate di Storiacce, ora Ghioni lavora al servizio della protezione dei dati, partendo da una domanda stampata sul dorso del suo libro Hacker Republic, edito da Sperling & Kufer. Siete sicuri che proprio in questo istante non ci sia qualcuno che sta frugando nella vostra posta elettronica? Fabio Ghioni, gli hacker, nuove spie anche al servizio di spionaggio e controspionaggio. Esatto, ma fare spionaggio attraverso le linee telematiche, specialmente contro i paesi occidentali, è una cosa di una semplicità estrema. Che vuol dire? Che mancano le difese necessarie? E poi dove mancano queste difese? Significa semplicemente che i paesi occidentali stanno migrando tutta la loro capacità produttiva e di controllo della produzione delle infrastrutture critiche, per esempio energia, telecomunicazioni, trasporti, ovviamente militare, no, e quant'altro. Stanno migrando tutte su piattaforme telematiche, quindi possono essere gestite tutte da remoto. Questo ovviamente apre le porte a chi opera nel lato oscuro, diciamo così, a aggredire un'infrastruttura o dei dati, invece che per via fisica, per via telematica. Quindi io dalle isole Cayman, con un computer, un collegamento satellitare, posso attaccare un'infrastruttura critica. Le risultano attacchi a infrastrutture critiche o di altro genere italiane? Dell'Italia? No, l'Italia per adesso, diciamo che non è molto nell'occhio di paesi che possono essere interessati a fare dei danni, per adesso. Con le ultime dichiarazioni che ci sono state da parte del nostro paese nei confronti, per esempio, dell'Iran, io mi aspetterei dei grossi problemi nel futuro a breve termine. Dov'è che invece ci sono già stati questo tipo di attacchi? Negli Stati Uniti, nel Regno Unito. Contro quali obiettivi? Banche, aziende farmaceutiche, trasporti e energia. Energia in particolare. E in questi attacchi l'obiettivo è sempre quello di succhiare dati? No, è quello di piantare in laboratori specifici di queste aziende dei virus che possono essere attivati a volontà di chi li ha piantati per danneggiare le strutture. E poi, già che ci sono, prelevano anche dei dati. Forse nessuno se l'è mai chiesto, ma il semaforino che fa passare il treno è gestito da un sistema telematico. Se quel semaforino diventa verde o rosso nel momento sbagliato, provi a indovinare cosa può succedere. Diciamo che attraverso un sistema telematico bucato, quell'operazione sarebbe stata possibile. E sono insicuri i sistemi telematici delle grandi infrastrutture italiane? Un sistema non è mai sicuro in assoluto. Diciamo che la vulnerabilità fondamentale che abbiamo, che hanno tutti i paesi occidentali, è l'ignoranza che si ha dei possibili danni che possono essere causati attraverso lo strumento telematico. Una delle cose che dico nel libro, no? Persone si preoccupano spesso del fatto che la propria privacy possa essere violata, quindi dicevo, computer, entra un hacker, mi ruba i dati. Ma il danno vero che può accadere è che un hacker attraverso il mio computer commetta un reato gravissimo e questo reato sarà addebitato a me. Lei ha un'idea di quanto spesso e se questo accada già? Purtroppo non esistono statistiche di questo tipo. Io so che si può fare, so che è stato fatto a livello internazionale. Ma quando si prende un computer che ha commesso un reato, ben che vada per l'utente, eventualmente in un processo si può determinare che non è stato lui, per esempio, a scaricare foto pedopornografiche. Ma chi è stato non è possibile determinarlo, perché dopo che passa un tot di tempo sicuramente è difficile anche fare un'indagine. Restando su questo tema, lei ne parla in Hacker Republic ed è anche uno dei temi più discussi da quando soprattutto i social network tipo Facebook sono diventati un fenomeno così capillare. Quanto rappresentano uno strumento ulteriore che mette a rischio i furti di identità? Allora, una cosa che bisogna sapere è che le proprie credenziali sui social network, specialmente Facebook, non sono private. Si vede la password, si vede la username. Una volta che si sa questo, uno deve semplicemente regolarsi su che cosa va a mettere su questo social network. Una cosa solo volevo dire. Se voi usate le credenziali, non usate la stessa credenziale per il banking online. Non usate la stessa per la posta elettronica. Se io apro la credenziale di Facebook, a quel punto posso entrare in tutta la tua vita. Lei è un attento e profondo conoscitore di tutto ciò che sulla superficie e sotto, diciamo, nella rete si muove. Le risultano appunto anche casi di furti di identità. A un certo punto, nel momento in cui il fenomeno Facebook stava scoppiando anche nei confronti di persone note, erano iniziati casi di furti di identità. Beh, questa è la ragione anche per cui io mi sono iscritto a Facebook. A un certo punto ne stavo parlando con amici, sono andato a controllare, no, il mio nome e cognome e ho visto che c'era un altro, cioè uno che si spacciava per me, che aveva raccolto delle persone che conoscevo. Allora ho deciso, rendo ufficiale quant'altro in modo tale che si possa distinguere. Beh, così sembra quasi un colmo. Però non è un colmo. Adesso Facebook lo consente, perché una cosa che bisogna anche sapere è che Facebook non fa nessun controllo sull'identità delle persone. Questo anche consente a certe persone, per esempio a certi hacker, no, ma anche ad altri, persone che lavorano nell'intelligence, agenzie di investigazione e quant'altro, di creare dei profili particolari per contattare delle persone per raccogliere informazioni su di loro. Diventano amici, no, iniziano a conoscere. A farle parlare e quant'altro. Ecco, queste sono tecniche che con i social network si possono utilizzare senza bisogno di andare, che ne so, a seguire la persona e a fargli delle foto. Storielle. Storiacce. Non vengono più dal freddo, ma dalla rete le nuove spie, come ha confermato l'ultimo grande assalto informatico svelato negli States. Sono squadre di hacker al servizio di governi, ufficialmente o no, o delle organizzazioni terroristiche o di quanti cercano anche solo con un semplice spamming o attraverso i social network di entrare nei segreti di ciascuno o solo nei PC altrui per usarli per commettere reati. Ogni giorno le grandi aziende ricevono in media 10 tentativi di attacchi, ha già detto nella prima parte Fabio Ghioni, passato dal Tiger Team di Telecom e dall'inchiesta sui dossier illegali alla protezione della privacy, passando per Hacker Republic, il suo racconto dell'incontro tra un hacker in carne e ossa e una della letteratura mondiale come la Lisbeth di Stieg Larsson. Le nuove frontiere dello spionaggio passano anche attraverso i social network. Parlavamo prima di hacker anche al servizio dei governi. Secondo lei questo è valido anche per i paesi occidentali e anche per il nostro? Allora, per i paesi occidentali sì, in particolare per gli Stati Uniti. Negli Stati Uniti avevo tra l'altro scritto un, un articolo sulla squadra di hacker che stava formando per la prima volta il Dipartimento di Stato nel 2004. Adesso si sono molto più evoluti perché ogni agenzia militare negli Stati Uniti ha la sua squadra di cyber war, quindi di guerra cibernetica, al servizio. Ovviamente sono tutti hacker, sono, diciamo, al servizio del governo, anche se nel libro dico un vero hacker è molto difficile che sia fedele a una istituzione, quindi è più facile che vada lì dentro per stare all'interno del corpo del nemico e raccogliere più informazioni. Però se si fidano i governi, io chi sono io per dire il contrario? Riguardo all'Italia, ha informazioni? Dell'Italia, per quanto ne so io, le istituzioni saltuariamente contattano delle persone molto in gamba per cose specifiche, spesso appellandosi al loro senso dello Stato, cosa assente in questo tipo di profilo di persona, diciamo, nel senso che non credono nelle istituzioni, quindi ovviamente non hanno senso dello Stato. Però non ci sono squadre di hacker al servizio che lavorano 24 ore su 24 e quant'altro, anche perché non ci sono, ecco. Tralasciamo il perché. Ho capito. Ha colpito il fatto, la notizia di un presunto, ecco, baco informatico nella email privata del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta. Quanto è difficile un'operazione del genere in email, in caselle postali di personaggi con informazioni così sensibili, quindi si presume anche più difese rispetto ad altre? Non penso che siano più difese rispetto ad altre, anche se dovrebbero. Allora, ho letto quella notizia e anche la descrizione della notizia. Ipotizzo che la fattispecie descritta non abbia nulla a che fare con un hacker, ma semplicemente o con qualcuno che è andato nella sua posta elettronica per vedere così che cosa stava facendo, o in un errore di un suo collaboratore, da quello che ho letto io. Però non escludo assolutamente che una persona come il sottosegretario alla presidenza del Consiglio sia controllato. Ma se lo è, non se ne accorgerà mai. Perché lei dice se lo è non ci sono tracce, cioè no. Neanche mail civetta. Insomma, quando ci siamo incontrati la prima volta, tra le vicende che venivano contestate a lei e alla sua squadra, c'era anche quella del Corriere della Sera. In quel caso c'era stata una mail che traeva in inganno e che aveva fatto attivare il meccanismo del bacco del Corriere. Esiste la possibilità di insinuarsi nelle mail altrui anche senza questi stratagemmi? Certo, specialmente se il luogo fisico dove si trova il computer non è protetto, specialmente se si conosce qual è il server, diciamo, di destinazione della posta elettronica, cioè dove viene mantenute, dove vengono mantenute le credenziali, eccetera, eccetera. Insomma, poi personalità molto in vista di solito non si curano molto della loro conoscenza dello strumento informatico e quindi spesso tralasciano dei dettagli che invece sono fondamentali. Andiamo a parlare di difesa di dati di istituzioni o comunque altri tipi di dati sensibili, ad esempio banche. Si era parlato molto della difesa delle informazioni contenute all'interno dei computer delle banche quando anni fa dalle banche anche del Liechtenstein furono succhiati i famosi conti che poi anche in Italia arrivarono con la lista degli evasori di Vaduz. In quel caso cos'è successo e che cosa ci può dire? Guardi, quello che è successo è molto semplice. Una persona si è approfittata della sua posizione di, diciamo, esperto informatico che lavorava presso la banca dati di questa banca, ha fatto copia e incolla della banca dati su un CD e poi se l'è venduto. Cioè non è stata un'operazione di hacking, è stata semplicemente una leggerezza da parte della banca nel lasciare far fare qualunque cosa a chi lavora nel proprio centro di elaborazione dati. Tra l'altro vorrei aggiungere che la stessa persona ha venduto i dati anche alla Francia, alla Germania, no? Ha cercato di venderli un po' dappertutto, ha detto già che ci sono, no, massimizzo la mia operazione. Quei dati io non voglio difendere, no, o dare un'arma di difesa agli evasori fiscali, ma sono dati non certificati, cioè chi dice che vengono dalla banca quei dati? Un ladro? Cioè questo ha rubato dei dati? No? Beh, questo poi attiene alle inchieste penali che sono aperte, sì, nelle varie procure, stabilire la liceità e poi anche la utilizzabilità di questi dati che arrivano appunto da strade non lecite e non trasparenti. Le risulta se dopo questo questo episodio qualcosa sia cambiato anche nei sistemi di sicurezza in Italia o all'estero, soprattutto in questi paesi che sono così attenti con una fiscalità particolarmente ambita, sia cambiato qualcosa nei sistemi di sicurezza dei loro segreti? Non ancora, ma so che stanno cercando, anche perché io personalmente ho ricevuto diverse richieste da banche estere per cambiare la loro architettura e renderla inaccessibile anche agli amministratori di sistema. Poiché questo infatti ce l'aveva anticipato un po' di tempo fa. Ci stiamo lavorando, diciamo, ma non per evitare agli evasori di evadere, semplicemente perché un dato di una banca deve essere protetto. Bisogna rendere impossibile a chiunque vada lì di potersi approfittare di informazioni che sono di proprietà della banca e dell'utente, ovviamente. E quanto spesso invece avvengono attacchi ai dati delle aziende italiane? Giornalmente io direi su ogni azienda almeno una decina di attacchi al giorno, su quelle importanti. Quanto spesso vanno a buon fine, questo purtroppo è indeterminabile. Quando lei dice attacchi... Tentativi di intrusione, intendo, con attacchi. Tentativi di intrusione che quindi a quel che possono puntare ad ogni tipo di informazioni, ad ogni livello, diciamo. Sì, che vengono specialmente da concorrenti. Cioè ci dobbiamo sentire spiati tutti quanti? Dobbiamo sentire che qualcuno cerca di conoscere quello che stiamo facendo. Guardi che quello che succedeva in Telecom lo fanno tutte le aziende. Cioè quello che lei dice è che tutte quante le aziende hanno al loro interno squadre preposte per attacchi e difese? Sì, oppure pagano degli esterni per farlo, però l'intelligence dal punto di vista commerciale è fondamentale per un'azienda. Cos'erano i clan nigeriani di cui lei parla nel suo libro? Si chiama appunto la truffa lettera Nigeria, no? Una lettera che viene di solito apparentemente da un dignitario ministeriale nigeriano, inizialmente, adesso sembrano arrivare da altri paesi, il quale dice: io ho 20 miliardi di dollari bloccati fuori, purtroppo non posso uscire, ho bisogno del tuo aiuto, se me lo dai ti do la metà, no? Persone prese dall'avidità. Queste lettere arrivavano ad aziende prevalentemente, però molti privati che le vedevano, no, dicevano: ah, perché devo dare all'azienda l'opportunità di farsi 10 miliardi di dollari? Provo a farlo io. Poi quando rispondevano, i nigeriani dicevano: dammi tutti i tuoi dati personali, nome della tua banca, conto corrente, firma autentica, numero di fax della banca, no, autorizzato a ricevere bonifici o a farli, eccetera. Questi ingenuamente mandavano questa informazione, dopodiché il loro conto veniva svuotato completamente. Se davano il conto di un'azienda, l'azienda si trovava nei guai. Ecco, queste erano le truffe che venivano fatte. Ai tempi venivano fatte con delle lettere normali, con l'avvento di internet, cioè... Di che anni parliamo? Dagli anni 70 hanno cominciato. Truffe succedono, si ripetono, tutte le mail che ciascuno di noi riceve nello spam sono potenziali truffe? No, allora queste erano potenziali truffe, invece lo spam è una cosa di una pericolosità incredibile. Io suggerisco tutti di non sottovalutare mai una lettera che propone, che ne so, il Viagra, orologi, no, e quant'altro, perché oltre a essere un fastidio, nel momento in cui uno la apre, esiste all'interno della lettera almeno un'immagine invisibile che si collega a un server remoto e che dice a chi ha mandato la lettera di spam che noi esistiamo. Dopo che loro capiscono che noi esistiamo, il nostro indirizzo email sale di classifica e cercano di mandarci dei virus che non necessariamente puntano alle nostre informazioni, ma puntano a rendere utilizzabile il nostro computer per commettere dei reati che poi, se vengono commessi, verranno addebitati a noi. Reati come le intercettazioni telematiche. O traffico di materiale pedopornografico. Restiamo sulle intercettazioni telematiche. Quanto è possibile e quanto è fattibile? L'intercettazione presuppone che io sia in tempo reale su una linea e stia ascoltando. Invece l'intrusione mi consente di andare anche in differita su un computer e prelevare quello che voglio. Sono molto semplici, come dicevo prima, specialmente perché le persone non sono educate a riconoscere un'intrusione, no, da segni che possono venire, diciamo rumori di fondo che possono venire sul nostro computer, e non sono educate per esempio a non fare determinate azioni, per esempio aprire una mail di spam. Ma questo parlando di intercettazioni telematiche, per intenderci, come quelle che vi sono state contestate in Brasile. Sì, ma per quanto riguarda le intrusioni, sì, tutte queste cose che dicevo prima consentono o facilitano un malintenzionato a effettuare un'intrusione su un computer. Però ripeto, la maggior parte delle volte questa serve per piantare un virus che serve per commettere reati successivi. Che tipo di reati? Per esempio denial of service, cioè bloccare la linea di un'azienda 1000 computer vengono istruiti contemporaneamente a saturare la banda di un'azienda o di un paese, come era successo con l'Estonia, per esempio, o con la Georgia quando c'è stata la guerra con la Russia, oppure scaricare materiale coperto da copyright, per esempio, no? O effettuare un'intrusione telematica, non dalla mia linea, ma attraverso il suo computer. Così è sempre lei quella che è addebitabile di questo reato. Eccetera. Anche la circolazione di informazioni o la circolazione di documenti segreti o non proprio trasparenti, come possono essere quelli legati alle informazioni sul terrorismo. La rete viene utilizzata spessissimo per questo tipo di scambio di informazioni. Se si ricorda, è stata utilizzata la rete anche per rivendicare l'omicidio Biagi e anche le bombe precedenti. L'omicidio Biagi è stato il primo caso che io conosco che è stato firmato digitalmente dalle Brigate Rosse. Loro cosa hanno fatto? Dal luogo dell'omicidio, poco dopo, hanno attivato e mandato un messaggio con il telefonino con cui è stata poi mandata la rivendicazione, che è stata mandata qualche giorno dopo. Questo ha fatto in modo di poter dire con certezza che quella rivendicazione era autentica. È stata la firma digitale dell'omicidio. Quanto invece alla circolazione di informazioni sul terrorismo islamico? Usa di solito delle tecniche molto più semplici e insidiose, nel senso loro hanno già una barriera, no, all'ingresso, che è quella linguistica. La guerra al jihad alle elettroniche, la jihad telematica che ha, diciamo, annunciato Osama Bin Laden nel 2000, presuppone l'attacco ai paesi occidentali sulle infrastrutture critiche dei paesi occidentali per causare caos. Lei deve sapere una cosa, tra l'altro, non so se è noto, ma per esempio negli Stati Uniti i missili hanno un indirizzo IP. L'indirizzo IP è quello che ha anche il computer, che vuol dire che i missili sono governati telematicamente. Che cos'è invece il Russian Business Network? Un'organizzazione criminale spaventosa russa, la quale tratta qualunque cosa veramente illecita, dal traffico di organi al traffico di materiale pedopornografico estremo, a traffico di droga, di armi e quant'altro. Tutto questo attraverso la rete? Loro governano i loro traffici soprattutto attraverso la rete. Tra l'altro sono tra i pochi che sono in grado di rubare soldi alle banche occidentali, perché le banche nostre usano un protocollo molto vecchio, mentre i russi lo conoscono quasi tutti. Quindi sono i più, diciamo, pericolosi. Sì, sono pericolosi, ma anche perché lì non è reato penale l'intrusione telematica, quindi lì possono veramente operare da casa senza nessun problema. E invece ci racconti della sua... La mia Digint, dice. Si chiamava Icon veramente quando l'ho fondata io. Un'azienda nata, tra l'altro, su richiesta della Procura di Milano, proprio dopo la rivendicazione della bomba di Via Po, che è successo nel 2000, questi episodi hanno cominciato a essere rivendicati attraverso la posta elettronica e gli inquirenti si sono trovati nella difficoltà di poter avere delle procedure investigative per riuscire a capire da dove venivano questi messaggi. E allora ho proposto di introdurre le intercettazioni telematiche e di aggiungere anche un ulteriore particolare che si chiama intercettazione parametrica. Allora, questa Icon, poi io sono uscito naturalmente perché poi lavoravo in Telecom Italia e non potevo avere a che fare con un'altra azienda, quindi sono uscito, ha cambiato nome in Digint, probabilmente dopo lo scandalo Telecom ovviamente, e è stata acquistata da Finmeccanica. Ecco, adesso dicono che sia un fiore all'occhiello di Finmeccanica, mi hanno chiesto, ma ci sei ancora dentro? Purtroppo no, magari. Invece adesso ho fondato una nuova società e ci occupiamo prevalentemente di strumenti, di creare tecnologie e soluzioni per la protezione della privacy di persone e di aziende. Protezione totale. Questa intervista, come la precedente a Fabio Ghioni, quella cioè dei tempi dell'inchiesta sui dossier illegali, è sul sito radio24.it nell'archivio delle storiacce. Ciao, a sabato!